Europa 24. Noi non giochiamo con le regole, così il ministro dell'economia Piercarlo Padoan al termine dell'Ecofin risponde a chi gli chiede cosa intendesse il commissario UE agli affari economici Pierre Moscovici, che ieri ha detto flessibilità sì, ma giocare con le regole no. Insomma, il tema è questo. Un buongiorno da Gigi Donelli, questa giornata europea all'insegna degli incontri di Lussemburgo. Allora, prima sentiamo un pezzo che ci fa il punto sulla questione in gioco. Un pezzo realizzato da Teresa Trillò. La Commissione europea si è sempre mostrata disponibile a usare la flessibilità di bilancio prevista dalle regole europee, ma l'Italia deve continuare a essere seria nello sforzo di riduzione del deficit. Pierre Moscovici, commissario europeo agli affari economici, detta la linea sulla maggiore flessibilità di manovra auspicata dal nostro governo. L'Italia, replica il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, lavora in assoluto rispetto delle regole e in collaborazione con Bruxelles. Il governo, dice, sta preparando il bilancio che sarà approvato a fine settimana dal Consiglio dei Ministri. Buone notizie intanto arrivano sul fronte industriale, con la produzione che in agosto vola a sorpresa dell'1,7% rispetto a luglio e del 4,1% su base annua. Il risultato migliore rende noto l'Istat da 5 anni a questa parte. Dati positivi, ma, avverte l'Istituto di Statistica, agosto è un mese anomalo, tipicamente caratterizzato da livelli di produzione molto bassi, tanto che il Centro Studi di Confindustria stima una forte oscillazione in settembre, con la produzione in flessione dell'1,8%. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Di questo dunque si parla, si parlerà credo ancora a lungo, perché naturalmente ormai è entrata a far parte dei classici dei rapporti tra Stati e Unione Europea, quindi elasticità più o meno. Ma durante l'Ecofin in corso da questa mattina si sono registrati invece progressi sulla FFT, la cosiddetta tassa delle transazioni finanziarie. 10 paesi, tra cui l'Italia, presenteranno una bozza nelle prossime settimane, che poi verrà sottoposta a tutti i ministri delle finanze europee. Sentiamo allora a questo proposito il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Questa nuova misura fiscale si andrà a collocare su strutture fiscali nazionali tra loro molto diverse. Questa è stata la ragione fondamentale per cui ci è voluto tanto tempo per mettersi d'accordo, perché una misura che ha un impatto sul paese A ne ha un impatto molto diverso sul paese B. Su che cosa andrà a effettivamente collocarsi questo, diciamo, non lo vorrei anticipare, vi dico solo che ci sono varie dimensioni, quali sono le attività che sono tassabili, quelle che non lo sono, con quali misure e così via, quindi è una cosa abbastanza complessa che adesso verrà messa a punto dalla Commissione su mandato dei 10 paesi. Un altro tema, come dire, forte, caldo dell'attualità europea naturalmente riguarda la questione migranti. Come sapete, anche la Merkel sta compiendo un viaggio in Africa, naturalmente lo fa come nella sua veste di cancelliera tedesca, ma si porta dietro anche un ragionamento, che è quello dell'Unione Europea rispetto al contenimento di questo fenomeno. In estrema sintesi, investire di più nei paesi di partenza piuttosto che costruire muri o reti sempre più alte al confine dell'Unione. Il servizio. Che ci fa la donna più potente d'Europa seduta in una scuola di Niamey, in Niger, uno dei paesi più poveri al mondo? La cancelliera tedesca da 3 giorni in Africa, è stata in Mali, ieri era in Niger, oggi in Etiopia e una volta a Berlino incontrerà il presidente della Nigeria e del Chad. Il filo conduttore, è chiaro, è la collaborazione nella politica sulle migrazioni. Chiusa la rotta balcanica con l'accordo Ankara-Bruxelles che funziona, per chiudere anche la rotta del Mediterraneo, Angela Merkel sembra convinta che bisogni lavorare all'interno di progetti di aiuto allo sviluppo per gestire i flussi dei paesi di partenza. La Germania lo fa a titolo personale, ma nella partita europea di contenimento dei flussi sembra sempre più giocare un ruolo fondamentale. E in un'Europa in cui Theresa May è sempre più schiacciata su posizioni anti-europee e anti-immigrazione, Angela Merkel sembra voler rappresentare l'Europa opposta, baluardo dei valori di accoglienza da una parte, ma anche pragmaticamente volta a stringere accordi di contenimento dall'altra, e in questo a giocare un ruolo di primo piano fra i paesi europei. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E infine una breve: la Corte di Giustizia UE ha condannato l'Italia per non avere recepito in maniera corretta e completa la direttiva europea che prevede un sistema di indennizzo per le vittime di qualsiasi reato violento commesso sul proprio territorio, anche nel caso in cui le vittime siano cittadini di un altro Stato membro. Così la Corte stamattina. E alle 14.07 è tutto. Naturalmente la linea va come di consueto a tutti i convocati. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.